questo giovedì 12 aprile. Intanto uno sguardo ai titoli, il Sole 24 Ore, tassi botta al 2,84%, scende lo spread, il titolo di apertura, mentre il Corriere della Sera si concentra sul lavoro, tensione sulla riforma, il finanziamento ai partiti e l'apertura della Stampa, soldi ai partiti, niente tagli, il Secolo XIX, i partiti si tengono stretti i soldi, mentre Avvenire, i partiti provano la dieta. E poi, cari ascoltatori, è Lega ancora da tutte le prime pagine dei giornali. Per Repubblica, Lega, ecco i conti segreti. Il Giornale, ecco il dossier su Casa Bossi. Libero, Maroni non può fare il segretario. C'è un retroscena di Libero che vedremo, interessante. Il Fatto Quotidiano, Maroni sapeva. Il Messaggero, fondi occulti, Bossi sapeva. Vedete che sono tutte accuse incrociate. Il complotto, il titolo dell'Unità, c'è cioè Maroni con Bossi. Mentre invece il Manifesto si occupa della riforma del mercato del lavoro, fuoco amico. E c'è il ministro Fornero fotografata. Il PDL vuole cambiare i connotati della legge sul mercato del lavoro. Insomma, come vedete, Lega, finanziamento ai partiti, ma riforma del mercato del lavoro e mercati finanziari in primo piano. Io però voglio partire da una notizia che vi voglio raccontare così. Oh, intanto io ve la racconto come la raccontano i giornali. Vi dico già che forse c'è, forse, dietro un clamoroso abbaglio di tutta la stampa nazionale. Però andiamo con ordine. Prima, come viene proposta dai giornali. Da tutti, eh? Corriere della Sera, pagina 27, nega la comunione a bambino disabile, non può capire. La scelta di un prete di Ferrara non distingue il pane dall'ostia e dunque un bambino di 10 anni alla prima comunione con gravi ritardi psichici, a questo bambino il prete Don Pier Giorgio Zaghi, 70 anni, da 24 parroco della chiesa dell'Immacolata Concezione a Porto Garibaldi, Comacchio, ha negato, così dice il Corriere della Sera, così dicono tutti i giornali, ha negato la comunione. Il cattivo prete che nega la comunione al disabile, pagina 21 di Libero. Il Secolo XIX, pagina 8, niente prima comunione a un disabile. Il Messaggero, comunione negata a disabile, incapace di intendere e volere. Il Giornale, quando la comunione diventa un handicap. Insomma, tutti i giornali dedicano anche una pagina a questo tema, a questo fatto di cronaca che invece Avvenire mette in prima pagina ribaltando la situazione. Ma guardate che non è questo il giallo arriva alla coda, eh? Il giallo arriva nella coda. Comunque, Avvenire la pone in maniera ben diversa. Anzi, accusa gli altri giornali di aver fatto una campagna sbagliata. Comunione negata, non è vero. È stato accolto quel bimbo disabile, una carezza in attesa dell'ostia. Semplicemente nessuna discriminazione, ma qualcuno ha voluto montare una polemica pretestuosa e velenosa. Il bambino si accosterà al sacramento in un percorso successivo improntato sulla teologia dell'affetto. Dunque, anche Avvenire non nega che ci sia stato un qualcosa in questa parrocchia di Ferrara. Perché però il giallo? Lo stesso Avvenire in un commento dice: se i giornali si fossero informati di più, si sarebbero accorti dei nomi molto strani degli avvocati che hanno e che tutelano i genitori di questo bambino. Ora, voi avete seguito di recente la vicenda che è andata su Striscia la Notizia dell'avvocato Giacinto Canzona. Vi dice qualcosa? Giacinto Canzona, che è accusato di avere spacciato per anni notizie false sui giornali, più che false, inverosimili, le suore che per andare dal Papa prendevano la multa all'autovelox, il prete che beveva, faceva 5 volte messa e quindi aveva bevuto 5 volte il vino sacro e dunque diventava positivo all'etilometro. Ebbene, volete sapere come si chiamano gli avvocati che difendono i genitori di questo ragazzino? Si chiamano Antonio Ricci, l'ho già sentito questo, forse come quello di Striscia la Notizia, ma sarà un omonimo, e Antigico Zannaco, che uno dice, ma che nome strano, Antigico Zannaco. Avvenire dice, sarà mica l'anagramma di Giacinto Canzona? Antigico Zanna, effettivamente è proprio l'anagramma di Giacinto Canzone, ma sarà un caso clamoroso. Sta di fatto che i genitori di questo bambino di 10 anni sono difesi da due avvocati, uno che si chiama come quello di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, e l'altro che si chiama come, guarda caso, l'anagramma di Giacinto Canzona, Antigico Zannaco. Io uno che si chiama Antigico tanto non l'ho mai incontrato in vita mia, di nome di battesimo. E quindi, voglio dire, ve la do così, è una notizia di fatto vera a questo punto, questa del prete che ha negato l'ostia al bambino di 10 anni, o falsa? E rimango anch'io col dubbio e vi lascio con questa domanda. Sta di fatto che su tutti i giornali di oggi prende una pagina. Notizia invece verissima, perché l'abbiamo già data ieri e il protagonista diretto la conferma, è quella del Cardinal Rambo, come è stato soprannominato, vale a dire il neocardinale Domenico Calcagno, ex vescovo di Savona, che ha confermato e conferma in un'intervista a Repubblica, pagina 24, di avere un vero e proprio arsenale in casa di armi. Guardi, è solo una passione innocente. Inizia così l'intervista, pagina 24, con Marco Ansaldo, vaticanista di Repubblica. Sono tutte armi regolarmente denunciate. Da quando mi sono trasferito in Vaticano non vado più nemmeno al poligono a sparare. Insomma, Domenico Calcagno, definito Monsignor Mitra, Cardinale Rambo, definizioni forse ingenerose, ma certo cozzano, racconta Ansaldo, con l'aspetto pacioso invece di questo, di questa eminenza, che dice: ma no, guardi, tutti sono a conoscenza della mia passione per le armi, tutti lo sanno, il fucile me lo ha lasciato mio papà quando è morto, mica potevo buttarlo, le altre armi le tenevo in casa a Savona, poi quando sono venuto e sono stato nominato cardinale le ho portate con me. E al che Marco Ansaldo dice: scusi, ha portato delle armi in Vaticano? No, non ho detto in Vaticano, ho detto che le ho portate a Roma. Differenza sostanziale che tiene a sottolineare il cardinale. Lo ripeto, è una passione innocente, una passione innocua, una passione da collezionista. Mi piaceva restaurarle, non pensavo di essere trasferito in Vaticano. In Liguria andavo anche al poligono a sparare, ora non lo faccio più, ma perché non ho più tempo. Hanno detto anche che ho un animale da caccia, ma no, è un meticcio, un incrocio tra un labrador e un lupacchiotto. Sta di fatto che anche il cardinale denuncia un presunto complotto. Guardi, da tempo alla diocesi di Savona, sotto tiro per accuse a sacerdoti sui casi di pedofilia, ho pensato che la diffusione dei documenti sulle armi in mio possesso potesse essere legata in qualche modo a quelle vicende. E infatti il titolo dell'intervista è: mi piacciono le armi, che male c'è? Vogliono infangarmi per il caso pedofilia. Così parlò Sua Eminenza Domenico Calcagno, detto anche Cardinal Rambo. 24 mattino. E allora alle 7:35 minuti molti quotidiani approfondiscono ancora il tema della Lega, anche perché sono usciti nuovi documenti, chiaramente tutti spiattellati sui giornali. L'operazione più evidente da questo punto di vista la fa Il Giornale. Beh, c'è il dossier che ormai è diventato famoso, The Family, è uno dei dossier che è stato sequestrato dalle procure che indagano sui conti della Lega e viene fotoriprodotto in 8 pagine inserto speciale all'interno del giornale. Eccolo qui, il dossier The Family. E sopra, sul frontespizio, c'è scritto Umberto, Sirio, Renzo Bossi. E sfogliandolo ci sono i conti ai ristoranti, le multe di Renzo Bossi, pagate tutte con i conti, pare, della Lega, le spese sanitarie di Umberto Bossi, le spese per la ristrutturazione di parte della casa Gemonio di Umberto Bossi, le spese per la scuola, cioè i fondi che arrivano alla scuola, la Bosina, fondata dalla moglie di Umberto Bossi. Insomma, i documenti dei PM di Milano, Napoli e Reggio, tutti pubblicati dai giornali. Che cosa c'è scritto in queste spese? Invece ci sono scritte tante cose, appunto, i soldi che vanno e vengono, i pagamenti forse personali. Ci sono anche nuove intercettazioni. Per esempio, il Corriere della Sera, a pagina 3, con Fiorenza Sarzanini, racconta quello che, secondo l'ex tesoriere Belsito, era il ruolo anche dell'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che entra prepotentemente sulla scena in questa vicenda. Secondo Belsito, in una intercettazione annotano gli investigatori della direzione antimafia, Belsito aggiungeva che sia Bossi che Tremonti erano d'accordo sul fatto che la Lega Nord avesse voluto diversificare i propri risparmi investendo all'estero. Aggiungeva che gli importi bonificati erano riportati in bilancio, anche perché il movimento politico aveva chiuso con un attivo di 16 milioni e mezzo di euro. E tra l'altro c'è questo commento attribuito a Giulio Tremonti, nel quale Tremonti avrebbe detto: fate bene a investire all'estero, se soprattutto se non credete nell'euro. Non vedo dove sia il problema, anche in virtù del fatto che tra due mesi l'euro salterà. Ecco, questo sarebbe attribuito a Giulio Tremonti, il pensiero di Giulio Tremonti, come riferisce Belsito. Ma insomma, fa un certo effetto sentire che, secondo l'ex tesoriere Belsito, per carità, da confermare oppure no, l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti avrebbe detto: fate bene a investire all'estero, tanto tra due mesi l'euro salterà. Il Secolo XIX lo metto a pagina 3. Il Senatur e Tremonti sapevano della Tanzania. Pagate con i soldi pubblici le multe e le tasse di famiglia. Certo, però, c'è anche un altro giallo, tanto che l'Unità mette in prima pagina questo titolo: il complotto, e mette come autore del complotto, secondo alcuni all'interno della Lega, lo stesso Maroni, cioè colui che vorrebbe diventare e parrebbe essere indicato dalla base come il successore di Umberto Bossi. Perché c'è questo giallo proprio di Maroni. Repubblica ne parla a pagina 3, il Fatto Quotidiano lo mette in prima pagina in maniera molto chiara con il titolo d'apertura: Maroni sapeva. Nelle intercettazioni della direzione antimafia Belsito parlava di affari in Tanzania e diceva: Baffetto ha tutto in mano. Chi sarebbe Baffetto? E Girardelli, in odore di 'ndrangheta, rivelava: ora incontro Bobo. Capite che ormai ci sono coltelli metaforici che volano sui giornali. Eccolo il giallo di Maroni, secondo Repubblica, intercettazioni nelle quali si parla spesso di incontri fissati tra Bonet, questo imprenditore definito lo sciampato, che faceva, secondo l'accusa, affari con i soldi della Lega, e lo stesso Bobo Maroni. Il primo appuntamento risalirebbe al 27 gennaio. In realtà a quella riunione Maroni non avrebbe partecipato. Non è chiaro se vi siano state altre occasioni di incontro. Sta di fatto che i veleni sono sparsi sui giornali. Umberto Bossi si fa risentire dalla prima pagina della Padania. Il titolo di apertura della Padania è questo: Bossi batte forte il valore dell'Unità. Dice, e questo è il messaggio clou di questa breve intervista rilasciata al direttore della Padania Stefania Piazzo: attenzione, il valore dell'Unità della Lega è un bene assoluto, guai a indebolire la sua compattezza, e soprattutto non bisogna cadere nel trappolone. Non spiega bene e non si addentra ai particolari di quello che potrebbe essere il trappolone, secondo Umberto Bossi, però sta di fatto invita all'Unità della Lega, tanto che nel retroscena di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, pagina 6, nella cena post manifestazione a Bergamo, pare che Umberto Bossi abbia detto a Maroni: la Lega deve restare unita, in questo momento tanti guardano a te, Roberto, ma io non esco di scena, anzi io sono e resterò il garante dell'unità della Lega. C'è a questo proposito Libero, che in prima pagina spara a tutta evidenza un vero e proprio giallo. Guardate il titolo d'apertura: Maroni non può fare il segretario. Sarebbe, e lo scrive Gianluigi Paragone, un giornalista che conosce molto bene i meccanismi all'interno della Lega, è stato anche il direttore della Padania anni fa. Lo dice lo statuto, eccolo il giallo: proibiti due lombardi al vertice, e il senatur che cosa ha fatto? Si è fatto nominare presidente. Allora, pagina 7 di Libero, Gianluigi Paragone lo spiega bene. Attenzione, c'è lo statuto, l'articolo 15, lì è scritto che il presidente federale e il segretario federale devono appartenere a due nazioni diverse, loro le chiamano nazioni, vale a dire regioni, ecco, salvo diversa decisione del Consiglio federale. Dunque due della nazione lombarda, per lo statuto della Padania, non possono essere presidente e segretario. Il problema è che Umberto Bossi, che è della nazione lombarda, è il presidente. E Maroni come fa dunque a diventare segretario federale? A meno che non trovino l'accordo, che è questo il trappolone, forse, che è quello che Bossi ha messo a Maroni per impedirgli di fare il segretario? Chi lo sa? Sta di fatto che di trappolone parla, e senza troppi mezzi termini, l'attuale e ancora non dimissionaria vicepresidente del Senato, Rosi Mauro. E guardate, curiosamente, cari ascoltatori, adesso si sta montando una sorta di difesa da parte di alcuni, anche giornalisti. Per esempio oggi Vittorio Feltri, in prima pagina del Giornale, fa una difesa accorata di Rosi Mauro. Insomma, vogliono la strega al rogo, senza neanche un indizio. Questa è la linea di Vittorio Feltri, la vicepresidente del Senato linciata dai militanti del Carroccio, pur in mancanza di reati accertati, che è quello che dice la stessa Rosi Mauro. Dice: non mi dimetto, non sono accusata di nulla, non c'è nulla nelle carte che dice qualcosa contro di me. E Vittorio Feltri lo scrive: è il simbolo del male assoluto, già identificato. Rosi Mauro, vicepresidente del Senato, accusata di ogni male, di aver circuito con metodi subdoli il povero Umberto Bossi, piegato dalla malattia, quindi inabile a difendersi dalle arti occulte della donna che ha fatto carriera profittando della debolezza del capo. Se la strega, cioè Rosi Mauro, poi è terrona, nata in provincia di Brindisi, ha tutti i requisiti per essere condannata al rogo, un sacrificio liberatorio, purificatore. Ed è proprio questo che fa maggiormente schifo, vedere la massa di fedeli imbufalita che si scaglia contro una signora per giunta antipatica, destinandola al ruolo di capro espiatorio. Eliminiamo lei e assolviamo tutti gli altri. È una pratica collaudata, antica, e funziona sempre. Ma ieri anche Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano diceva: ma scusate, deve dimettersi lei che non è accusata di nulla, ci sono persone indagate, sotto processo, e rimangono al loro posto. Rosi Mauro tiene duro. Renzo Bossi invece, guardate, io ve la leggo perché sul Quotidiano Nazionale è data così, ve la affido, ci sono già le scommesse. Che farà Renzo Bossi ora? Sappiate che sulla lavagna dell'anglo-svedese Unibet, una delle agenzie di scommesse, beh, l'opzione politico è pagata pochissimo, cioè è pagata tantissimo, perché insomma non tornerà, si pensa, a fare politica. La prima ipotesi a tabellone è quella che partecipi a un reality televisivo. È quotato a 3,30. Se pensate che Renzo Bossi, il trota all'Isola dei Famosi, non sarebbe neanche male, il trota all'Isola dei Famosi. Giocate all'Unibet, la danno a 3,30. Puntate un euro, vi ridanno il vostro euro e 3,30 euro, se andrà mai all'Isola dei Famosi. C'è ancora tanto di indagini che coinvolgono politici, ci sono temi di politica legati al finanziamento ai partiti. Da questo ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Allora, ci sono tantissime notizie, non farò in tempo a darle, ma intanto un accenno, perché poi ne parleremo alle 8.30, i finanziamenti ai partiti, come racconta il Sole 24 Ore, pagina 15, Barbara Fiammeri. È stato trovato un accordo, ci sarà una certificazione dei bilanci che verranno pubblicati online, l'istituzione di una commissione per la trasparenza guidata dal presidente della Corte dei Conti, che controllerà la destinazione delle risorse, proporrà eventuali sanzioni. Ci sarà la pubblicità delle donazioni sopra i 5.000 euro, lo stop agli investimenti allegri, perché si potrà investire solo sui titoli di Stato italiani. Questo per quel che riguarda i fondi pubblici dei partiti. Non c'è quello che molti italiani chiedono, una riduzione dei fondi ai partiti. Cioè, i partiti hanno detto: va bene, massima trasparenza, ci mettiamo d'accordo, faremo in modo che tutti i casi che sono evidenziati dai giornali, in questi casi non ci saranno più, ridurremo al minimo le possibilità di frodi e di truffe, però il finanziamento ai partiti rimane. Voi cittadini l'avete abolito nel 93 con un referendum? Fatti vostri. Ne parleremo alle 8.30. Intanto, sempre per quel che riguarda le inchieste, è indagato anche il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, di SEL, indagato per abuso d'ufficio. L'accusa favorì la nomina di un primario. Lo ha annunciato lo stesso Vendola su tutti i giornali. Immaginate, soprattutto sui giornali, diciamo, orientati a centrodestra, c'è la critica a dire: toh, anche Vendola adesso è indagato, lui che faceva la morale a tutti. È indagato e Vendola dice: non dimostrerò, insomma, come si dice in questi casi, dimostrerò che non c'entro assolutamente nulla. Riguardo alle inchieste, vi voglio raccontare invece una notizia che solo il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella racconta a pagina 7, che riguarda, ci riproietta un po' nel passato, Silvio Berlusconi e il Bunga Bunga, perché va avanti l'inchiesta in cui lui è imputato appunto per favoreggiamento alla prostituzione, sfruttamento della prostituzione minorile. E la notizia, in una delle udienze, fa abbastanza stupore, o comunque fa scalpore. Da Berlusconi versamenti a Minetti, Nicole Minetti, consigliere regionale, e alle gemelle De Vivo, testimoni nel caso Ruby. L'imputato, scrivono Ferrarella e Guastella, l'imputato che paga 127.000 euro a tre testimoni del suo processo, solleva sospetti in qualunque dibattimento. Ma diventa un caso se il processo è quello di Ruby e del Bunga Bunga, se l'imputato generoso è l'ex premier Berlusconi e se i quattro bonifici sono di appena pochi mesi fa e cadono nel pieno delle udienze. E soprattutto se le beneficiate sono tre importanti testi del suo processo, le gemelle Eleonora e Imma De Vivo e la consigliere regionale Nicole Minetti. La storia, racconta i giornalisti, si stenterebbe a crederla se non esistessero le contabili bancarie acquisite dalla Procura dopo una segnalazione della Banca d'Italia e sono state esibite in udienza. E dunque il 14 ottobre 2011 Nicole Minetti, persona accusata di aver gestito gli aspetti logistici delle notti di Berlusconi, riceve sul conto Intesa San Paolo 15.000 euro come prestito infruttifero da Silvio Berlusconi, che un mese dopo gliene dà altri 40.000. Ma già il 1 luglio 2011 Berlusconi aveva dato 42.000 euro al conto personale di Enzo De Vivo, padre delle gemelle De Vivo, che conferma: sì, ho ricevuto sul mio conto altri 72.000 euro da una persona mai conosciuta. E chi è questa persona? Silvio Berlusconi, dice lui. Ma le sue figlie mi avevano anticipato, le mie figlie, che avrebbe dato un aiuto finanziario l'ex presidente del Consiglio. Insomma, il giallo è questo: come mai Berlusconi, in tutta la sua libertà, può fare prestiti infruttiferi, ma si chiede il Corriere come mai dà dei prestiti infruttiferi a tre testi chiave del processo in cui lui è imputato? Vabbè, in questo contesto di inchieste, non inchieste, c'è anche tutto il clima della riforma del mercato del lavoro che crea ancora profonda divisione. Sul Sole 24 Ore, a pagina 10, anche il PDL, facendo seguito ieri alla lettera che l'ex ministro Sacconi ha mandato al Corriere della Sera, il Corriere ha pubblicato, in cui Sacconi criticava duramente la riforma, beh, tutto il PDL ora chiede una profonda revisione del disegno di legge. E Nicoletta Picchio, sempre sul Sole 24 Ore, a pagina 11, racconta di come le imprese siano pronte a fare una proposta comune per cercare di modificare un disegno di legge che, come ha detto più volte in questi giorni il presidente dell'industriale Marcegaglia, non è un qualcosa di definito anche pessimo e che va cambiato per garantire soprattutto una maggiore flessibilità in entrata nel mercato del lavoro. Su questo, guardate che pare finita un po' la luna di miele tra alcuni giornali e Mario Monti, alcuni giornali che dicono: attenzione, si sentono gli scricchiolii. La stessa Unità, pagina 4, racconta: il governo oggi dovrebbe far sapere quanti sono gli esodati, ma il governo stesso non lo sa bene e non ci sono forse i soldi. E Monti è preoccupato. Monti è preoccupato tanto che oggi vedrà i leader di partiti A, B, C, Alfano, Bersani e Casini. Sul Messaggero, a pagina 3, Monti è definito irritato. Ieri ha incontrato il capo dello Stato Napolitano per parlare del suo recente viaggio in Medio Oriente, ma hanno parlato anche di questi appunto attacchi, critiche al decreto legge, al disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro. E Monti avrebbe detto: attenzione a scherzare con il fuoco. Tanto che, guardate, due giornali che certo sono sempre stati critici di Monti, ma oggi lo mettono un po' anche politicamente, si intende, sulla graticola, facendosi questa domanda. Il Fatto Quotidiano, a pagina 8. Monti ha già fallito? Lo spread cresce, si rischia una manovra bis e ci sono critiche sulla riforma del mercato del lavoro. Libero, a pagina 3, con Maurizio Belpietro. La ricetta è questa: mandare a casa Monti. Insomma, sulla riforma del mercato del lavoro ci si gioca moltissimo. Tra l'altro vi segnalo, giusto in conclusione, anche l'articolo di Dario Di Vico sul Corriere della Sera, pagina 17, che racconta l'altalenanza di un rapporto che aveva segnato sulla temperatura grande sintonia e ora grande, se volete, distonia o comunque mancanza di sintonia tra Emma Marcegaglia, appunto, e Mario Monti. L'affondo di Emma, allieva bocconiana e i dispiaceri del professor Monti. Lo trovate a pagina 7 del Corriere della Sera e con questo do la linea al giornale radio.